si è scoperto che l'espansione accelera, per esempio, e non sappiamo. È molto aspra sui rapporti tra la scienza e la società. Poco tempo fa le applicazioni della scienza. Il gas è lo stato più semplice in cui si trova la materia. La libertà di poterlo ridistribuire e modificare. La cultura scientifica, vuol dire, è qualcosa di immenso. Al fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. E sono le 10.37 di questo sabato 29 novembre 2008 e benvenuti ad un'altra puntata di Caccia al fotone. 3380 94 94 per inviare un sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per inviare una mail. Sito di riferimento www.cacciafotone.it. E oggi parleremo di un'esperienza molto interessante che si svolge proprio qui a due passi da Bologna. E l'atelier Raggio di Luce presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi. A parlarne in studio Paola Cagliari, curatrice del progetto. E oltre a Paola avremo fra qualche minuto in collegamento telefonico anche Holmes Bisi, ordinario di fisica generale presso la Facoltà di Ingegneria di Reggio Emilia. Buongiorno a te Paola. Buongiorno Fabio. Paola, tanto per cominciare, hai 100 parole per descrivere il progetto in maniera del tutto generale, poi durante la trasmissione descriveremo meglio tutti gli aspetti del progetto. Possiamo dire questo, che la luce che è l'oggetto del nostro progetto è dappertutto, e però per indagarla è necessario, noi crediamo, accenderla nella mente. Ecco, Raggio di Luce è questo, è il progetto e anche il luogo dove bambini, ragazzi e adulti possono accendere la luce nella loro mente. Molto bello. Beh, di questo e di molto altro però ne parleremo nel proseguo della trasmissione. Per adesso andiamoci ad ascoltare i Beat Six, un gruppo indie rock inglese che ovviamente produce musica Creative Commons. La canzone che ci andiamo ad ascoltare si intitola When the Chemicals Ignite. Emotions E bentornati a Caccia al Fotone. Oggi parleremo dell'esperienza Atelier Raggio di Luce. Qui in studio abbiamo Paola Cagliari, pedagogista. Paola, cominciamo a descrivere un attimo questo progetto, questo atelier. Prima di tutto, quando nasce il progetto e perché? Il progetto dell'Atelier Raggio di Luce nasce circa nel 2004. A Reggio Emilia, già dalla fine degli anni 90, avevamo un progetto molto ambizioso che era quello di costruire un centro internazionale per dare sviluppo ai diritti e alle potenzialità dei bambini, dei ragazzi e degli adulti, e questo sulla base dell'esperienza dei nidi e delle scuole dell'infanzia della nostra città, che come tutti sanno hanno avuto questi anche riconoscimenti sul piano internazionale per il loro approccio educativo. Nel 2004 il progetto prende forma, vengono ristrutturati dei vecchi magazzini di formaggio in disuso, quindi il centro internazionale sta per diventare una realtà. All'interno di questa grande struttura era presente un grande spazio per laboratori. E quindi un gruppo così anche direi volontaristico interdisciplinare, composto da inizialmente un fisico, che è appunto il professor Holmes Pisi che prima citavi, e atelieristi delle scuole dei nidi della nostra città, Giovanni Piazza e Via Vecchi, iniziarono a dialogare intorno a un progetto. Il gruppo poi si allargò anche a figure di pedagogista, quale appunto io e la mia collega Maddalena Tedeschi, e questo gruppo interdisciplinare iniziò a ragionare intorno a quale tipo di laboratorio costruire, perché sappiamo che in giro per il mondo ci sono musei e laboratori sulla scienza di molti tipi. L'idea nostra era quella però di prendere a prestito l'approccio educativo e pedagogico dei nidi e delle scuole dell'infanzia, che riconoscono una grande capacità del bambino e dell'essere umano di essere costruttori di conoscenza e non solo di copiare o di introiettare conoscenze già fatte, e quindi di costruire un ambiente diverso ovviamente da quello delle scuole, ma capace di attivare queste capacità nei bambini, nei ragazzi e negli adulti. E quindi, così ragionando insieme, si è profilata questa idea di costruire un ambiente che apprendesse come oggetto di conoscenza la luce e i fenomeni dell'ottica classica, ma che proponesse questi fenomeni attraverso oggetti, situazioni, dispositivi che rendessero tali fenomeni particolarmente interessanti, seduttivi, spettacolari, e quindi che favorisse innanzitutto la meraviglia, una percezione di come la luce interagisce con l'ambiente, le persone, i materiali, e che attivasse alcune ricerche nei bambini e nei ragazzi. Paola, io qualche giorno fa sono venuto proprio lì all'Atelier Raggio di Luce, e io ancora sinceramente mi devo riprendere, perché a parte che è veramente molto bello dal punto di vista stilistico, quindi luce che arriva un po' da tutte le parti, oggetti che deviano la luce in maniera del tutto diversa. La cosa di cui ci sono rimasto veramente sconvolto è che alla fine dell'esperienza, tra virgolette, visiva o tattile, al bambino non viene data la spiegazione finale, quindi il bambino viene fatto interpretare il fenomeno, punto e basta. In realtà quello che siamo abituati a vedere in qualsiasi atelier, in qualsiasi museo della scienza, è che il bambino vede l'esperienza scientifica, la cerca di interpretare, poi l'animatore gli dice: bene, hai capito X, in realtà è Y e te lo spiego com'è. Il bambino interpreta il fenomeno e quindi sviluppa il cosiddetto metodo scientifico, che è un metodo scientifico quasi implicito del bambino. Sì, direi che hai proprio colto nel segno di quello che è il nostro intento, ma anche la nostra pratica quotidiana con i bambini e con i ragazzi. Noi crediamo che il processo di conoscenza, il processo di relazione con il mondo e con i suoi fenomeni sia un processo costruttivo da parte delle persone, dei bambini, così come degli esseri umani. Tant'è vero che esistono ricerche della fine degli anni 90 che indagano appunto come anche studenti laureati in diverse discipline scientifiche, se poi non lavorano in quel campo, ritornano alle a quelle che sono le teorie ingenue dei bambini di 5-6 anni. Quindi questo significa che in un qualche modo non è tanto l'istruzione, la dimostrazione, la spiegazione che consentono all'essere umano di diventare più consapevole del suo mondo, ma il percepire, l'esplorare, l'indagare, il provare a dare forma ad argomentazioni non da solo, perché nessuno di noi costruisce conoscenza da solo, ma possibilmente dialogando con altri. E quindi noi abbiamo proprio voluto non dare delle dimostrazioni abbastanza rigide di fenomeni che contenessero già in sé una spiegazione che era solo da dare, ma proprio un luogo dove fare esperienza, cogliere le differenze anche, le sfumature che si presentano nel mondo rispetto ai fenomeni luminosi, perché queste possano interrogare i bambini, i ragazzi, gli adulti che le incontrano e spingerli a provare nuove variazioni, nuove esperienze. L'intento è soprattutto questo, di sollecitare curiosità, sollecitare meraviglia. Noi siamo ormai troppo abituati a qualsiasi tipo di fenomeno e quindi tutto ci sembra in un qualche modo banale e scontato, quindi sollecitare quella, no, quella stupore, quella meraviglia che invece incontri quando trovi qualcosa di inaspettato, e attivare la ricerca, quindi attivare quel piacere anche della ricerca che dovrebbe spingere di più i nostri bambini e i nostri ragazzi anche ad avvicinare le scienze, che in genere invece considerate molto osti, che vengono allontanate, si sceglie di più facoltà di tipo umanistico perché forse anche più umane come approccio e come interesse per le persone che li incontrano. Paola, fino adesso abbiamo parlato di bambini, ma è rivolto solamente ai bambini o è rivolto anche a categorie tra virgolette più alte della popolazione bambinesca? No, l'atelier si rivolge a tutte le età. Si rivolge a tutte le età e le esperienze sono uguali, sono diverse? No, l'ambiente è lo stesso, non ha luoghi specialistici specializzati, non ha percorsi rossi, gialli, blu per età differenti, ma è un percorso ed è un ambiente che si offre così com'è. L'unica variazione, come hai potuto vedere, sono piani un pochino più bassi per i bambini più piccini e piani più alti per i ragazzi, gli adulti. Devo dire che però è abbastanza difficile incontrare ragazzi della scuola superiore o adulti che si rendono immediatamente disponibili a questo tipo di esperienza. È sicuramente molto più facile, forse anche la nostra professionalità si è costruita con i bimbi più piccoli, quindi forse anche questo, ma è sicuramente più facile con i bambini del nido, della scuola dell'infanzia, della scuola elementare, che sono sicuramente più generosi e più desiderosi e curiosi di sì, più adulti sono sicuramente più saccenti, nel senso io l'ho già visto, che mi stai spiegando veramente che la luce arriva da lì e quindi che la luce è colorata, che fa interferenza. Certo, sì, il bambino è più recettivo, no? Certo, devo dire che però quando poi superata quella il naturale imbarazzo iniziale di mostrarsi magari non competenti, di mostrarsi giocosi, no, che gli adulti possono avere, devo dire che molti scoprono che quel sapere che riescono a dire intorno alla luce, nell'azione concreta e nel provare a verificare queste teorie, questi concetti, si rivela in genere una competenza appunto solo saputa ma non padroneggiata fino in fondo, e questo devo dire muove molti pensieri negli adulti e negli educatori, questo negli insegnanti è sicuramente un disassamento cognitivo molto importante. Senti Paola, fai finta che io sia un bambino di 10 anni, io sto cominciando il percorso del raggio di luce. Provami a descrivere che cos'è questo percorso e che cosa vedrò lungo il mio cammino. Ma noi, se vuoi, diciamo ti faccio anche la voce modo. Del bambino. No, no, no, ti ringrazio. Ti posso dire questo: noi diciamo in questo modo: bambini, questo è uno spazio per incontrare la luce. Voi cosa sapete della luce? Quali sono le vostre domande? Avete mai visto cose, fenomeni strani che vorrete raccontare agli altri? Perché quando entreremo dentro a questo spazio, dove troverete luci di tutti i colori, di tante intensità, che fanno, producono anche fenomeni molto strani, voi potrete incontrare delle cose che avete già visto, cose che non avete ancora visto. Tutto quello che incontrerete può essere toccato, spostato, provato, e quindi l'invito è quello di entrare e di giocare il più possibile con le luci, materiali, gli strumenti che incontrerete lungo il percorso. Se lo farete insieme potrà essere anche più divertente. Paola, noi proveremo a giocare nella seconda parte della trasmissione. Adesso ci lasciamo con un pezzo musicale e poi torniamo in studio. Bentornati a Caccia al Fotone, l'intrattenimento scientifico di Radio Città Fujiko. 3380 94 94 per inviare un sms e il solito cacciafotone@radiocittafujiko.it per inviare una mail. Al telefono abbiamo il professor Holmes Bisi, ordinario di fisica generale presso la facoltà di ingegneria di Reggio Emilia. Buongiorno Holmes. Buongiorno. Cerchiamo di spiegare un attimo quali concetti scientifici si cercano di fare intuire ai bambini all'interno di questo atelier a raggio di luce. Sì, più che dei concetti veri e propri, cioè più che dei temi sulla luce, si cerca di far avvicinare i bambini alle problematiche della luce, cioè di farli avvicinare a questo mondo, che è un mondo fantastico anche, un mondo fisico e fantastico, e ciascuno seguendo il proprio percorso, le proprie intuizioni, cioè non ci sono dei percorsi conoscitivi prefissati. Quindi per esempio, non lo so, interferenza, diffrazione? Possono, se sono interessati, possono fare delle esperienze di interferenza, di diffrazione, e interpretarli alla loro maniera, non debbono raggiungere. L'obiettivo non è che capiscano l'interferenza o la diffrazione o queste cose. L'importante è che affrontino questi fenomeni e che si pongano delle domande, cerchino loro magari di fare delle teorie. Se anche le teorie sono sbagliate non importa, l'importante è che i loro cervelli e la loro curiosità si attiva. Holmes, per esempio, non lo so, io ho visto un macchinario particolare, un macchinario che utilizza dei CD per dividere la luce nei 7 colori dell'arcobaleno. Questo che informazioni deve dare a un ragazzo che vede... Posso dire, 7 colori è una vecchia storia. Era Newton che lo diceva perché faceva il parallelismo con le 7 note musicali. Bene. I colori sono tanti, però se uno li va a distinguere sono essenzialmente 6, ma questa è una parentesi. Ok. Questo innanzitutto è un bellissimo strumento per giocare con la luce, cioè per fare delle immagini colorate e per porsi dei problemi, problemi anche di fondo, perché com'è possibile che uno strumento così semplice quale un CD riesca a scomporre la luce? Come fa? Cosa c'è dentro? È possibile smontare un CD? Tra l'altro una macchina, il CD, che contiene tantissime informazioni, milioni di informazioni, e noi cerchiamo di sollecitare bambini, giovani a farsi domande di questo tipo. Quello dello smontare gli oggetti è una caratteristica importantissima che tutti i bimbi hanno, va aiutata, anche perché ultimamente hanno sempre più degli oggetti che non sono smontabili. Sì, perché normalmente si trovano con oggetti già montati, già pronti per l'uso, e non sono abituati. Il vecchio orologio non c'è più, che tutti i bimbi hanno alla mia età smontato un orologio, una sveglia meccanica. Adesso sono tutti delle strutture molto più compatte, il CD è l'esempio tipico. Anche io, senza andare troppo indietro nel tempo. Certo. Paola, mi piace molto capire come avete interagito fra figure molto diverse. Tu sei una pedagogista, lui un fisico. Come si sono integrate queste due figure e questi concetti così diversi di spiegare dei fenomeni? È stato un dialogo molto interessante che continua tuttora. E il professor Bisi ci ha portato appunto quelle che sono le visioni della scienza intorno appunto alla diffrazione, alla rifrazione, perché abbiamo vasche con l'acqua che producono arcobaleni di diversi tipi, di diverse forme. Abbiamo un tunnel, non l'abbiamo detto, ma dove i bambini incontrano la luce invisibile. È vero. Incontrano insieme alla luce invisibile, quindi all'infrarosso, anche l'ultravioletto, incontrano superfici che interagiscono in maniera particolare con la luce, trattenendo la luce e rilasciandola lentamente. Ecco, oppure l'ultimo nato dell'atelier è una camera ottica che consente di appunto esplorare questo tipo di fenomeno. E quindi il dialogo molto interessante è stato quello di capire come questi fenomeni, anziché essere appunto fenomeni spiegati attraverso teorie, attraverso concettualità già espresse, ma potessero trovare dei luoghi di manipolazione, di esplorazione, di smontaggio e di spettacolarizzazione. Questo è stato, direi, un aspetto molto interessante, perché porta dentro la modalità con cui lavorare con i bambini su queste cose. Devo dire che le discussioni sono sempre state molto interessanti, ma con grandi aperture da parte di tutti, sia dalla parte più artistica degli atelieristi, la parte più metodologica dei pedagogisti e la parte più scientifica del professor Bisi. Professor Bisi, io le volevo chiedere una cosa: gli exhibit all'interno di Atelier Ragioni Luce sono stati costruiti da voi oppure sono costruiti tra virgolette in itinere? Entrambi, cioè certo. Sono state costruite da noi, ma sono stati modificati parecchie volte sulla base proprio dell'esperienza del lavoro e anche della reazione dei bambini. Da noi è un termine da considerarsi in termini espansivi. Hanno lavorato gli atelieristi, hanno lavorato soprattutto all'inizio i genitori dei bambini di alcune scuole, venivano lì alla sera a fare il lavoro. Hanno lavorato quindi dei volontari e in parte hanno lavorato anche degli artigiani, che per fortuna abbiamo ancora da queste parti, perché molti stranieri vorrebbero l'atelier Raggio di Luce una copia, ma la difficoltà, oltre a quella concettuale, è anche quella che loro là non hanno degli artigiani in grado, ad esempio, di fare questi lavori. Quindi c'è tutto un mondo che ha lavorato intorno a questi ambienti ed è sempre un po' in continuo movimento, perché tante volte l'esperienza con i bimbi, basta guardare quello che succede che uno capisce che si può migliorare qualcosa. Tra l'altro ultimamente abbiamo anche dei mini atelier, degli spazi riservati a scuole che sono venute molte volte e che vogliono un loro angolo per costruire qualcosa loro, e gli viene dato, quindi è una struttura veramente in evoluzione. Volevo fare una domanda a entrambi. Se voleste costruire, non lo so, un nuovo exhibit all'interno di Atelier Raggio di Luce, quale exhibit vi verrebbe in mente di costruire? È una domanda complessa, devo dire, nel senso che non stiamo tanto pensando in questo momento a un'espansione, a una moltiplicazione delle situazioni, ma a un raffinamento in realtà dell'approccio, e quindi a rendere sempre più interagente con i bambini e con i ragazzi l'ambiente. Perché, come hai visto, in realtà per poterlo esplorare tutto ci vorrebbero davvero tempi molto estesi, e quindi dal mio punto di vista io non amplierei, ecco, l'atelier, ma lo raffinerei, ecco, con materiali, strumenti, occasioni di apprendimento più approfondite. Invece per il professor Bisi? Dunque, io sono appena, noi discutiamo sempre. Allora, già una scelta l'abbiamo appena fatto, che lo diceva adesso Paola Cagliari, che è quella di mettere una camera oscura. Una scelta nuova, non l'abbiamo ancora. Camera oscura è uno strumento bellissimo, perché si entra in un ambiente dove uno può provare il vero buio, ed è sempre una cosa molto bella, e poi ci possono essere dei fuori variabili e uno vede la luce entrare. All'inizio la luce, il fascio luminoso è grigio, poi si colora dopo e poi vede l'immagine ribaltata. Cioè, la camera oscura è un ambiente bellissimo anche per giovani studenti, perché uno può mettere dei banchi ottici e fare delle cose anche sofisticate. Però se una cosa completamente nuova, io ho un sogno, ce l'ho sempre, che è quella di guardare verso l'alto, cioè di mettere un cannocchiale, qualcosa, per vedere le stelle, cioè utilizzare il raggio di luce anche guardando il cielo. Grazie ancora Holmes. Grazie. E buon lavoro. Grazie. Ciao. E torniamo in studio a Caccia al Fotone. Paola, durante la trasmissione abbiamo parlato di questo atelier. Ora, per un ascoltatore medio che sta ascoltando questa trasmissione, dov'è questo atelier e come si fa a raggiungerlo? L'atelier Raggio di Luce è presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, che è a Reggio Emilia. È raggiungibile facilmente in treno, perché il Centro Internazionale è posto esattamente dietro alla stazione, quindi facilmente raggiungibile, ma è anche molto vicino all'uscita dell'autostrada. E si trova in via Bligny, quindi chi ha il satellitare può arrivare grazie a questa indicazione. È aperto tutti i giorni, e nei giorni feriali e tutte le mattine, ma anche nel primo pomeriggio, accoglie classi su prenotazione, classi di ogni livello scolastico, quindi dal nido alla scuola superiore, ma accogliamo anche gruppi di universitari. Il sabato e la domenica invece l'atelier è aperto al pomeriggio dalle 16 alle 19 per famiglie, cittadini, libere persone che sono interessate a conoscere l'atelier, e in questo caso non è necessaria nessuna prenotazione. Consiglio solo eventualmente di consultare il sito, perché in prossimità di alcune festività potrebbe osservare alcune chiusure l'atelier, ma in genere il sabato e la domenica è sempre aperto e accoglie senza prenotazione. Il sito è www.raggiodiluce.eu. Paola, grazie per essere venuta in diretta, grazie per la disponibilità, ringraziamo anche il professor Holmes Bisi che ha partecipato a questa trasmissione. Io intanto vi do appuntamento a sabato prossimo, stessa ora, stesso fotone e anche stessa radio, e poi buona scienza a tutti. Noi ringraziamo te Fabio di averci dato questa opportunità di poter fare conoscere la nostra esperienza. You're welcome.